face of our common dangers. Ich bin ein Berliner. I'm beginning a conversation with you, with America. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. Tonight I stand before you to report that America has created the longest peacetime economic expansion in our history. Questa sera sono qui davanti a voi per dirvi che l'America ha creato il più lungo periodo di pace e di espansione economica nella nostra storia. Abbiamo 18 milioni di nuovi posti di lavoro, i guadagni, le paghe crescono alla velocità doppia rispetto all'inflazione. Non ci sono mai state così tante case di proprietà nella storia dell'America e la richiesta di assistenza è ai minimi negli ultimi 30 anni, il dato di disoccupazione, non ne parliamo neanche, dal 1957 non andavamo così bene. Il compleanno di Radio 24, ufficialmente celebrato ieri, oggi ha un piccolo prolongé qui nel corso di Buongiorno America, perché vogliamo vedere proprio dalle parti dell'America com'era 10 anni fa, quando questa radio cominciava a trasmettere e quando un'altra nazione, un'altra America, forse in un certo senso un altro mondo si avvicinava, no? Quell'appuntamento epocale della fine del millennio, ve lo ricordate il millennium bug, i computer che si fermavano tutti e il mondo che crollava come un castello di carte, un'America che aveva questo protagonista qui che abbiamo appena ascoltato, il presidente Bill Clinton verso la fine del suo secondo malconcio mandato, reduce dal disastro Lewinsky, che aveva parlato però all'America nei termini orgogliosi che avete appena ascoltato, i termini di una prosperità solida, di una sicurezza, anche di una arroganza internazionale, sicuramente domestica, ma se vogliamo anche di un orgoglio, di un ottimismo americano che rasenta la sicumera. Avete sentito con quale buon umore, sicuro di sé, il presidente ha appena detto che le cose stanno andando, detto in una parola sola, splendidamente, che potere e ricchezza si stanno saldando, anche se poi della suddivisione magari si sorvola, e che il mondo, siamo nel 1999, nell'ottobre 1999, quando Radio 24 così caccia i primi vagiti, il mondo è nelle mani dell'America, non c'è avversario in un certo senso, sono gli happy times, li avrebbero chiamati più tardi per rievocarli quando le cose sarebbero peggiorate e in modo assai repentino. Miei concittadini americani, io sto davanti a voi per affermare che the state of our union is strong, che lo stato della nostra unione è forte, l'America sta lavorando tutta insieme di nuovo e le promesse del nostro futuro, pensate un po', sono senza limiti. I want you to hit me as hard as you can. Why? How much can you know about yourself if you've never been in a fight? Non è un caso, fra le tante cose che sentirete sparse nella puntata di oggi della nostra trasmissione, che ci sia un film che si chiama Fight Club, che va in giro a mietere successi e quattrini nell'America del 99, no? È il gusto a quel punto della lotta per la lotta, perché si sta entrando, no, in quella epoca dal sapore postmoderno in cui ci si può permettere in un certo senso di essere come nazione il parco a tema di se stessi, ma poi la realtà racconterà presto una storia diversa. Clinton, come vi dicevo, ha da poco liquidato la questione Lewinsky in modo sanguinosissimo e in un certo senso macchiando in maniera indubbia e incancellabile la propria presidenza, ma questo 99 è un anno anche particolare, prima di tutto per la sua fatalità, no? di essere l'ultimo del millennio, per tutte queste aspettative che contiene in vista di una svolta che è soltanto virtuale, soltanto numerica, però promette inevitabilmente, no? L'avvicinamento a una era di diversità e naturalmente di progresso. Delle cose che sono capitate, per esempio, l'America sta cominciando per la prima volta ad allentare le restrizioni su Cuba, la stella di Newt Gingrich sta cominciando a tramontare, Dennis Alpert prende il suo posto come Speaker of the House, il più scatenato, anche più stravagante, ma anche più di successo dei conservatori americani di un decennio, che ai conservatori, al sorriso piuttosto a intermittenza, Gingrich viene a sua volta travolto da uno scandalo di carattere domestico-sessuale, mettiamola così. C'è uno sciopero, c'è un grande sciopero dello sport professionistico americano, il mondo guarda con interesse, ma come, gli sportivi possono scioperare solo per soldi? Lo fanno quelli della NBA, si fermano per 191 giorni, per 6 mesi, il campionato praticamente non va in scena e il mondo sportivo mondiale appunto resta perplesso a guardare questa storia. Muore, sempre parlando di sport, a marzo muore Joe DiMaggio, che è lo sport del passato, quello della gloria, quello della leggenda, quello dei film in bianco e nero. C'è un personaggio che emerge dalle cronache che si chiama Jack Krevorkian, il dottor morte, no? Dr. Death lo chiameranno gli americani, e presto diventerà assai noto anche in Italia. Amministra la morte ai pazienti che ne fanno richiesta dietro compenso. Si apre un dibattito che 10 anni dopo ancora non si è chiuso, soprattutto in aprile un fatto di nera sconvolge gli americani. Have you ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? What if you were unable to wake from that dream? Due ragazzini vestiti proprio come i protagonisti di Matrix, Keanu Reeves e compagni, con quegli spolverini neri, ma armati di fucili automatici, di quelli che si possono acquistare liberamente in America, entrano in una scuola che sarebbe diventata tristemente famosa, quella di Columbine, vicino Denver, e mettono in scena la più incredibile, tragica strage scolastica che si sia mai vista in America fino a quel giorno. 15 ragazzi muoiono in quell'incredibile massacro. Sono tante, tra l'altro, le stragi seriali legate a questioni razziali o semplicemente a questioni nervose che l'America del 99 manda in scena. In tante macchie del paese si vedono storie di questo genere, persone che estraggono un'arma e cominciano a sparare. Invece un nome famoso che viene coinvolto anche in questo caso da una dipartita assai prematura e tragica è quello di John Kennedy, uno dei personaggi protagonisti delle cronache mondane dell'osservatorio delle celebrity in America. Si inabissa sul suo aeroplanino insieme alla moglie Carolyn Bissett e alla cugina Lauren Bissett dalle parti di Martha's Vineyard, mettendo fine a un altro spicchio, no, di quello yuppismo americano di cui è stato protagonista, e il mondo diventa popolato da più di 6 miliardi di persone. Si comincia a parlare di trattative americo-cinesi, ma siamo lontani dal G2, no? Dal G2 di oggi. C'è un signore nel frattempo di cui pochissimi si interessano, perché pochissimi lo conoscono, ha 38 anni, si chiama Barack Obama, sta insegnando alla Università di Chicago, facoltà di legge, si è anche associato a uno studio di buon successo, Davis, Miner, Barlin e Galland, è diventato uno dei soci dello studio in questione, che ha clienti importanti, clienti con i quali conviene fare amicizia, e sta facendo tranquillamente carriera nella politica locale, nella politica dello Stato, fa parte del Senato, ma solo quello dello Stato dell'Illinois. È appena stato rieletto, ha sconfitto l'avversario che si chiamava Jesse Judah, e così guarda, comincia a soppesare magari qualche prospettiva, non solo locale, si potrebbe guardare anche più in là, verso, no, il paese intero. Brutto bastardo, baby, brutto bastardo, cosa vuoi da me? andare via. Buongiorno America. Benvenuti, bentornati a questa edizione 1999 di Buongiorno America. La radio ha aperto ieri, insomma, se fossimo 10 anni fa, ma abbiamo deciso di raccontarvi com'era l'America da cui siamo partiti. Il confronto, il raffronto poi lo lasciamo a voi, per esempio parlando di musica. Questa signorina qua, che adesso vogliamo un attimo riascoltare, faceva girare un po' la testa a diverse generazioni, anche a età proibite. Si chiamava Britney Spears, era reduce dal club di Topolino, insomma, con quel kilt scozzese, ballando una danza carica di implicazioni e di allusioni. Stava dominando le classifiche di vendita musicali del 1999. La concorrenza era scarsuccia, sentite. Show me the Era l'epilogo, il 99, anno di rara avarizia quanto a qualità musicale. Forse veramente si erano sparate ormai tutte le cartucce del XX secolo e si era così agli sgoccioli di questi gruppetti musicali. Qua Backstreet Boys, per esempio, c'erano NSYNC, tutte queste boy band, magari un po' così, un pochino troppo, insomma, intrise di commercialità, un semplice generazionale, forse veramente un po' di grana grossa. Allora tanto valeva, come dire, mettersi le scarpette, quelle morbide, e la sera uscire. Perché la fine di un secolo è anche poi un momento così di grande lassismo collettivo. Si deve soprattutto festeggiare, quella era la parola chiave, l'attesa di quel famoso party del 31 dicembre 99. Mancavano 2 mesi e poco più, di conseguenza una canzone che si chiamava La vita loca, no? La vita stupida, tanto vale bruciarla in una sera, era la canzone. La colonna sonora giusta. Oh, vediamo un po' anche le liste di bestseller del 99, della fine 99, non sono propriamente, come dire, un momento di trionfo dell'intelletto. Primo, secondo e terzo posto della fiction americana, dei libri di narrativa americana nel 1999, se li aggiudica uno stesso signorino che si chiama Harry Potter, col prigioniero di Azkaban, la camera dei segreti, la pietra e quant'altro. La classifica di vendita è puro disimpegno, ma erano happy times, no? Clinton l'aveva detto: siamo bene, siamo ricchi, fondamentalmente godetevela. Non sarebbe stato un buon profeta. Tutta la chart, la classifica di narrativa è improntata al più puro disimpegno. Si vede qualcosa di meglio nella lista di saggistica. Appare per esempio Frank McCourt, recentemente scomparso al primo posto, e il libro di un politico, l'autobiografia di un politico che avrebbe riempito a modo suo gli anni a seguire, ovvero John McCain, che scrive Fate of My Fathers, la storia dei suoi anni di guerra. E intanto naturalmente si va moltissimo al cinema. Questo non è il miglior incasso del 99, è lontanissimo dall'esserlo, anzi, ma è sicuramente il film che, soprattutto da qua, guardando l'America, no, come abbiamo sempre fatto di lontano, studiandola, annusandola, cercando di decodificarla, di capirla, parola spaventosa, ma di capirla, questo sembrava il film. probabilmente, diciamolo, era il film chiave, no? Per il momento della disillusione, ma anche della illusione, il momento appunto della ubriacatura postmoderna. Si chiamava Magnolia e P.T. Anderson era il regista e la voce di Amy Mann ne caratterizzava la colonna sonora. Ma c'erano anche altri film che piacquero parecchio di quell'America un po' vicino alla classifica degli incassi, che voleva Star Wars al primo posto, Toy Story, Matrix di cui prima, La Mummia, insomma sti film qui. We're having everyone write out a job description, that way management can assess who's valuable. Per esempio la storia di un uomo di successo che ha talmente appagato i propri desideri da cercarne uno illecito, uno illegittimo, in sostanza il desiderio rivolto a una ragazzina che gli può dare l'unica cosa a cui non può più aspirare, ovvero la giovinezza. Era American Boy, un film che a sua volta American Beauty, un film che a sua volta raccontava una America per come ci piaceva capirla, penetrarla al di là di quei luoghi comuni trionfalistici di quel momento. Ed è un film non a caso che ebbe molta più popolarità fuori d'America che nell'America stessa. A very ordinary boy bumps into a girl. Dove invece c'era un film che si chiama Notting Hill, che anche noi abbiamo consumato in migliaia di programmazioni televisive, che però portava con sé quella che è veramente la stella americana del momento, quella che in un certo senso incarna, no, quella fine di Novecento, ovvero Julia Roberts, protagonista di questo film di ambientazione inglese, ma poi di sapore così americano, perché racconta che cosa? Racconta il solito vecchio sogno, un sogno che però ci piace dire per come poi le cose sarebbero cambiate nel giro di un annetto e mezzo, sapete, avvicinandosi a quel settembre del 2001, un sogno che sarebbe potuto diventare un incubo. I see dead people walking around like regular people. I don't see anything. Are you sure they're there? Il sesto senso si chiamava il film, che provava a dire che non tutto ciò che si vede è come si vede, non tutto ciò che sembra in un modo è fatto in quel modo, non tutto ciò che sembra vivo e caldo lo è veramente. In fondo, a posteriori, una grande metafora della America di quegli anni. Questo film in cui un bambino rappresentava in un certo senso la vita, l'aspirazione alla vita, ma anche tutto il suo contrario. E questa era l'America del 99, un'America dove in televisione trionfava Ellie McBeal, i premi, gli Emmys andavano a David Letterman, che per fortuna è ancora con noi, e i Sopranos erano il cult televisivo del momento. Un'America dove gli americani imparavano a comprarsi una cosa che un presidente 10 anni dopo avrebbe trasformato nell'oggetto simbolo del ventunesimo secolo, un aggeggetto con dei bottoncini, si chiamava BlackBerry. Il BlackBerry è del 99, ma noi torniamo nel 2009. Questo è Buongiorno America e sono gli auguri di Buongiorno America a Radio 24 da parte di Stefano Pistolini e di Gloria Guerrera, che è in redazione, la regia di Valerio Rocchetti a Roma e Carmelo Lauricella a Milano. Abbiamo la solita mail, buongiornoamerica@radio24.it, la pagina Facebook, redazione Jefferson 3, una replica dopo mezzanotte, una diretta dopo l'una e mezza, domani qui su Radio 24 con il fiocco, no? Il fiocco rosa in questa occasione. State tutti bene. Scooby-Doo, Scooby-Doo.